Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori. Allora, la lettura dei giornali. Vi ricordo prima gli ospiti, avremo la mamma del ragazzo Aldrovandi che, ricordate, è stato ucciso in un fermo di polizia alle 8:15, questo perché tre dei poliziotti autori di quel fermo finiranno di scontare la pena in carcere. Questo è stato deciso, non in affidamento in prova, e quindi avremo la madre Patrizia Moretti alle 8:15. Poi parleremo di tasse, le tanto amate tasse. Voi credete, cari ascoltatori, a tutto quello che dicono le promesse di tagliare le tasse adesso in campagna elettorale? Lo faremo con due ospiti alle 8:30, uno per la lista Monti e uno per fermare il declino, vale a dire il cofondatore Michele Boldrin. Ci fermiamo per il momento con la lettura degli ospiti e andiamo alla lettura dei giornali in edicola. Mercoledì 30 gennaio, intanto i titoli, molti declinati ancora sulla vicenda Montepaschi, il Sole 24 Ore, Banca Italia, PM avvisati da noi su Montepaschi. Per Repubblica, Montepaschi, ecco le indagini di Banca Italia. Il Messaggero intervista il presidente della Consob, Vegas, Montepaschi, i segreti in un esposto. E poi troverete molto questa frase, la banda del 5%. Stampa, la stampa, Montepaschi, c'era la banda del 5%, IPM, situazione esplosiva. Il Fatto Quotidiano lo mette addirittura così in prima pagina, la banda del 5%, Montepaschi, parla il super testimone. C'è anche un'intervista a quello che è il super testimone Antonio Rizzo, che ha coniato questa frase, la banda del 5%. Il Giornale, tangenti del 5%, la sinistra esplode. Libero, il PM in guai al PD, Montepaschi è una bomba. Il Corriere della Sera sceglie invece l'apertura politica, due regioni sul filo di lana, è una sfida per il Senato, con un anche sondaggio di Mannheimer. L'Unità, Berlusconi all'ultimo stadio, accusato dall'Unione Europea, scappa dal confronto TV e compra Balotelli. Anche per il Manifesto c'è Balotelli in prima pagina, un calcio alla miseria. Questo è il titolo con la foto di Balotelli. Berlusconi gioca l'asso elettorale 20 milioni, mentre in Italia si taglia del 75% sulle politiche sociali. Avvenire invece, caso Montepaschi, sistema solido. Ma io voglio partire da quella notizia che già un pochino alle 6:30 abbiamo affrontato nel nostro bar condicio, perché davvero è l'apertura del secolo XIX e come avete forse intuito si torna a parlare della situazione in Regione Liguria, dove pensavamo di avere scoperto tutto, cari ascoltatori. Ovviamente tenete le mani ben salde sul volante, questo sempre come consiglio. Pensavamo di aver visto tutto con l'acquisto di slip, profumi, champagne, vini, batuffoli di cotone, 11 euro di bottoni, tutto comprato e rimborsato da parte dei consiglieri dell'Italia dei Valori. Ma in questo caso il titolo del secolo è qualcosa che apre un pozzo profondo di ignominia, se è vero. I consiglieri a doppio stipendio. Sentite qui, i dipietristi liguri si intascavano in nero 2.000 euro in più al mese. È l'articolo di Marco Grasso e Matteo Indice che trovate a pagina 16. C'è una mazzetta di ricevute caserecce che nero su bianco descrive il capitolo forse più insopportabile di questa storia. Racconta, i finanzieri del nucleo di polizia tributaria ne hanno ora la prova, dopo le perquisizioni, che i consiglieri regionali della Liguria, transitati per l'Italia dei Valori negli ultimi anni, incassavano uno stipendio parallelo, occulto, cash, a spese dei contribuenti, una quota fissa rimasta in parte nera, perché non c'erano giustificativi di spese che ne coprano per intero l'utilizzo, a integrazione dei 10.000 euro che ogni 30 giorni ricevono già ufficialmente dallo Stato. Avete capito? A integrazione 2.000 euro in nero. E tutto viene da una perquisizione a casa di Giorgio De Lucchi, commercialista molto noto in zona, fedelissimo dell'ex plenipotenziario dell'Italia dei Valori Giovanni Paladini, che è il marito di Marilyn Fusco, attualmente passata peraltro in diritti e libertà. Lui è il contabile dei dipietristi, a casa sua la guardia di finanza trova appunto nei cassetti tutti questi scontrini compilati in cui si leggeva: tu sei il capogruppo dell'Italia dei Valori, che ne so, 2000 euro in più, in nero, in cash, nero, senza giustificativi, tutto rimborsato. La guardia di finanza ha messo le mani, trovate le prove, a casa del tesoriere, ogni mese 2000 euro in nero. C'è il commento di Giovanni Mari in prima pagina del Secolo: il cibo per gatti, le mutandine, i libri, le cene di gruppo. In tutta onestà la speranza era quella di aver sentito ormai tutto, di aver visto questi consiglieri regionali toccare il fondo in uno strafottente sperpero di denaro pubblico per sbrigare affari loro, vuoi per rimpinzare il frigorifero, per raccattare qualche voto. E invece, ecco qui, ultima notizia, i consiglieri dell'Italia dei Valori si concedevano un secondo stipendio in nero coi fondi del gruppo, ricevendo in contanti fino a 2000 euro al mese da spendere come meglio credevano. La misura è colma. E se non lo capiscono loro, glielo facciano capire i colleghi che si sentono con la coscienza a posto. Chi non ha ballato, chi è convinto tra i 40 consiglieri regionali di aver sempre agito nel bene, nel nome del popolo ligure, ha il dovere di alzarsi, di strillare nelle orecchie a queste facce di bronzo, di fare un passo indietro, ma non la dimissioncina da una poltrona, ma l'uscita di scena definitiva. E conclude questo editoriale appello Giovanni Mari: se i reduci del Consiglio non vogliono che vinca quella... voglio ovviamente crescente di urlare tutti a casa, serve dignità, alzatevi e parlate, date tutti i vostri scontrini, additate i vostri vicini di banco che non lo fanno, abbiate il coraggio di dichiarare: io sono onesto e coi disonesti non voglio spartire neppure questo emiciclo, o se ne vanno loro o me ne vado io, ora o mai più, per l'assemblea e a maggior ragione per la giunta. Davvero uno scandalo che rischia ogni giorno di far scoprire qualcosa di sempre peggio, questo nella regione Liguria. L'ultima è questa, lo stipendio in nero, in cash, parallelo, di circa 2000 euro in aggiunta ai 10.000 percepiti dallo Stato. Che dire, uno va in Lombardia e quindi le mani sul volante le deve tenere sempre, bene, attaccate. Non fate come quell'ascoltatore che un giorno mi ha scritto e mi ha chiamato dicendo che ha spaccato un volante per colpa mia, ma non ci posso fare nulla. Regalo di nozze con soldi pubblici, Regione Lombardia, questa è la novità, l'accusa di peculato per numerosi esponenti dell'opposizione, dopo che già una sessantina di esponenti invece di questa giunta, di questo consiglio, del precedente consiglio della maggioranza, erano già stati indagati da qualche giorno. Ora tocca all'opposizione, quindi tutti dentro, regalo di nozze coi soldi pubblici, questa sarebbe una delle accuse in Lombardia per i consiglieri, in questo caso del Partito Democratico, scrive il Corriere della Sera con Giuseppe Guastella, pagina 18, non si fa il nome della persona del Partito Democratico, consigliere regionale in Lombardia, che avrebbe speso per un regalo di nozze, avrebbe presentato una ricevuta poi rimborsata da noi, da voi. Tanto che c'è l'ironia di Maroni su Twitter, ora ci fanno quelli che ci facevano la morale, guarda qui tutta questa gente che ci faceva la morale. Ma anche su Repubblica, spese pazze in Lombardia, tocca all'opposizione, 20 consiglieri del centro-sinistra indagati per peculato, e va bene così. Vi lascio con questa chicca. Lo scrive il Quotidiano Nazionale. Io l'avevo detto, ma come mai nessun parlamentare è ancora entrato nel carcere di Bustarsizio per incontrare Fabrizio Corona e spiattellare poi tutto sui giornali? E infatti finora manca questa notizia, ma il Giorno ci fa sapere che a Bustarsizio Corona è un detenuto modello. Va a messa, probabilmente verrà messo a lavorare nella cioccolateria, nel laboratorio di cioccolateria del carcere. Si comporta in maniera tranquilla, non fa più il guascone, non fa più lo spavaldo, è molto sereno, integrato con gli altri, questo emerge dal Quotidiano Nazionale. E poi la notizia che più mi ha inquietato: il centralino del carcere di Bustarsizio, dove è detenuto Fabrizio Corona, è preso d'assalto da telefonate di fan di Fabrizio Corona. Vogliamo per favore, caro ministro Fornero, garantire la qualifica di lavoro usurante per i centralinisti del carcere di Bustarsizio? Grazie, questo è il mio appello. come pubblicità e meteo. 24 mattino. E allora eccoci qua alle 7:35 minuti. Allora, ancora Montepaschi è una delle notizie sui giornali, anche perché il procuratore capo di Siena ha detto poche parole ma chiare, che hanno fatto sobbalzare anche molti giornali e molti titolisti. Situazione esplosiva e incandescente, così il procuratore capo di Siena Tito Salerno ha definito l'inchiesta che sta procedendo, una situazione esplosiva, così titola infatti il Secolo, il Sole 24 Ore con Marco Ludovico, l'articolo a pagina 4. E soprattutto troverete spiegata ormai coniata la frase, il titolo, la banda del 5%. Questo è il titolo addirittura del Fatto Quotidiano di prima pagina: la banda del 5% operava nel Monte Paschi. Di che cosa si tratta? Beh, intanto dal punto di vista dell'inchiesta c'è da dire che ieri è stato interrogato a lungo, per ore, raccontano tutti i giornali, Valentino Fanti. Valentino Fanti all'interno del Monte Paschi di Siena aveva un ruolo chiave, era il segretario del consiglio di amministrazione della banca, l'uomo che affiancava il presidente Giuseppe Mussari e il direttore generale di allora, Antonio Vigni, entrambi adesso indagati per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, turbativa e truffa. L'uomo conosce ogni segreto, scrive per esempio Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, ogni retroscena di quanto accaduto negli ultimi 6 anni, visto che ricopre lo stesso incarico anche per la nuova dirigenza, e lui starebbe collaborando. Ma a proposito della banda del 5%, questa è una vicenda che ha tirato fuori un testimone che è stato interrogato. Si tratta di Antonio Rizzo, che proprio ha detto: beh, ma si sa, all'interno del Monte Paschi erano conosciuti come la banda del 5% chi? Gianluca Baldassarri, ex capo per la finanza del Monte Paschi, e Matteo Pontone, ex responsabile per le filiali londinesi. Ovviamente il 5% sarebbe la stecca, la mazzetta, la tangente che prendevano per ogni operazione. E il Fatto Quotidiano intervista Antonio Rizzo, lo fa Carlo Tecce, l'intervista la trovate a pagina 3, c'è anche la foto. Inizia così il colloquio: una sera a cena ti dicono, quelli di Monte Paschi sono conosciuti a Londra, lo sanno anche i muri, che sono la banda del 5%. Era una sera del 2007, la conversazione è registrata, ed eccolo qui Antonio Rizzo, in arte Super Bonus, per i lettori del Fatto, ex funzionario di Dresner, una banca d'affari tedeschi. Quelli di Monte Paschi si traducono in Gianluca Baldassarri, appunto, e Matteo Pontone. Perché Rizzo la banda del 5%? La definizione, risponde Rizzo, non è mia, anzi, per me fu una rivelazione di Michele Cortese, che vendeva i prodotti finanziari di Dresner e voleva placare i miei sospetti. Qualcosa avevo notato, davvero non lo si poteva non notare. Il Monte Paschi aveva acquistato da Dresner un derivato da 120 milioni di euro che ci tornava indietro per la solita ristrutturazione, perché questi titoli inficiavano lo stato patrimoniale di Rocca Salimbeni. A un certo punto venne a sapere che avremmo pagato una intermediazione a Lutifin, una società svizzera con sede a Lugano, 600.000 euro, e non ce n'era bisogno perché quel titolo non aveva strade alternative a Dresner. Questo mi fece nascere un dubbio enorme. Cioè, chiede il Fatto, c'è qualcuno in Dresner che voleva steccarsi quei 600.000 euro? Esatto. Però mi dicevano di stare zitto, buono e tranquillo. Il mio superiore, Lorenzo Cutolo, una persona per bene, spingeva per il riacquisto di questi titoli. Anche lui credeva che fosse assurdo pagare un broker per un affare già in tasca e non certo procacciato da terzi. Io temevo un maneggio e invece Michele Cortese, mi incontrò e mi disse che Baldassarri e Pontone, ecco qui che arriviamo al dunque, avevano ricevuto una indebita commissione attraverso Lutifin, e riporto le parole testuali: non ti preoccupare, la cresta non la facciamo noi, lo sanno tutti che quelli di Monte Paschi sono la banda del 5%. Eccola qui coniata questa frase che troverete su tutti i giornali e che ci porteremo per chissà quanto, la banda del 5%. Sapete che i giornali funzionano molto anche a titoli che sono slogan, a mia insaputa è diventata una cosa da mettere quasi sulla bandiera nazionale, e la banda del 5% certamente è il titolo che più leggerete nei prossimi giorni sulla vicenda Monte Paschi Siena. Anche Repubblica intervista con Francesco Viviano, l'ex dirigente e azionista, che dice: ora chiedevo chiarezza, mi minacciavano. Si tratta di Norberto Sestigiani, ex funzionario azionista del Monte Paschi, che dice: nel 2008 e nel 2011 avevo denunciato, parlando di minacce non troppo velate dopo le mie denunce, quando ho denunciato anomalie sull'acquisto di Anton Veneta al presidente Mussari, rispondeva ma non dava spiegazione, durante l'assemblea disse che tra i partecipanti c'erano dei corvi, cioè io, e pochi altri che chiedevano parole chiare sull'acquisizione di Anton Veneta. Insomma, adesso è anche un profluvio di articoli, interviste a dirigenti che allora denunciavano, dicono, e venivano o isolati o messi da parte o attaccati. Parla anche il capo della Consob, Giuseppe Vegas, presidente della Consob, in un'intervista al Messaggero, intervistato da Osvaldo De Paolini. Dice: da un esposto anonimo scattò l'indagine Consob. Era l'agosto 2011 e racconta Vegas, era il 2 agosto, ci fu un esposto anonimo che segnalava strane transizioni con soggetti esterni all'istituto. Si faceva il nome di Enigma. Enigma, aperta parentesi, è una delle operazioni derivate, eccetera, che è appunto ora sotto inchiesta della procura. E venivano ventilate ipotesi di riciclaggio. Ci stupì la rilevanza delle operazioni, si trattava di transazioni per un totale di 3 miliardi in titoli di Stato poste in essere dalla banca con una sola controparte, vale a dire Nomura. Nell'esposto si parlava anche di vendita anomala di titoli strutturati, nient'altro. Cosa fece allora la Consob? Chiede il Messaggero. Quasi subito avviammo accertamenti attraverso richieste di informazioni dirette alla banca, che però ci tacque sempre la connessione esistente tra l'operazione Alexandra e il successivo investimenti in BTP. Continuammo a indagare, si aveva un forte sospetto di reticenza e poi prendemmo contatto con la Banca d'Italia il 27 dicembre e chiedemmo alla vigilanza, che aveva già in corso un'ispezione, di acquisire informazioni circa le questioni sulle quali stavamo indagando. Insomma, poi continua la ricostruzione, dice: partì tutto da un esposto della Consob. Ma certo, questa vicenda promette in campagna elettorale di regalare ancora tanto, soprattutto se sono vere, come si ipotizza siano vere, visto che le ha dette lui, che è il capo della procura, questa inchiesta è davvero un'inchiesta esplosiva. La politica invece, se non è politica già questa, la politica nella stretta campagna elettorale, ieri c'è stato un duro attacco, poi in parte rivisto, del commissario europeo Olli Rehn, che, come scrive il Sole a pagina 12, bloccò la crescita all'epoca. Il governo Berlusconi ha deciso di non rispettare più gli impegni presi in estate con l'Europa e in questo modo ha soffocato la crescita economica italiana. Apriti cielo, dopo questa dichiarazione del commissario agli affari economici, il PDL è insorto, Brunetta ne chiede le dimissioni, incredibile ingerenza all'interno della campagna elettorale italiana e negli affari italiani. Per la verità, il Corriere della Sera racconta che questo Olli Rehn è una persona un po' abituata anche a delle gaffe. Attacchi e subito retromarce, l'uomo della lettera all'Italia, scrive Ivo Caizzi a pagina 5. Un Olli Rehn che scrive che Caizzi non ha mai negato la sua vicinanza, la sua amicizia anche con Mario Monti. Nel suo ufficio di vicepresidenza della Commissione europea anche Antonio Tajani, berlusconiano della prima ora, ha da poco diffuso un comunicato in cui si dissocia dalle critiche del suo collega Olli Rehn. Finlandese, 50 anni, ex calciatore, ex presidente della federazione calcistica del suo paese, ha spesso il problema di dover correggere le sue dichiarazioni. Per migliorare, iniziò a organizzare degli incontri segreti con giornalisti nella sauna interna della Commissione europea, imponendo il dress code alla finlandese, che vuol dire tutti nudi, ovviamente, donne, uomini. E quando il Corriere rivelò questi incontri si trovò ancora più spiazzato. Sostenne che la sauna intendeva diffondere usi e costumi del suo paese. Non seppe spiegare però perché mantenne segreti questi, riservati, diciamo, questi incontri. E comunque diventa una persona ad alto rischio di gaffe. È una persona che, quasi a braccetto dell'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti, affermò che in Italia la crisi è stata gestita bene, ed era il dicembre 2010, per cui non c'è bisogno di alcuna manovra. Dopo pochi mesi è la stessa Unione Europea, lo stesso Olli Rehn, che mandò la lettera famosa di adeguarsi, fare le riforme, eccetera. Quindi, insomma, un uomo spesso al centro delle polemiche, così racconta il Corriere della Sera. E poi che dire, c'è stata... c'è da dire che in questo però Frattini, ex ministro berlusconiano, intervistato dalla stampa, dice: Rehn ha ragione. Beh, una presa di distanza abbastanza forte da Berlusconi, però sbaglia i tempi, fa tutta una un racconto di quei giorni Franco Frattini, dice non ci fu nessun complotto, anche la lettera che arrivò da Francoforte non è stata firmata a Roma come dice Tremonti, sono balle quelle che dice Tremonti, era firmata da Trichet per la BCE, controfirmata da Draghi come successore designato. Abbiamo assistito a una fase di degradazione grave tra giugno e ottobre 2011. In giugno Berlusconi aveva concordato a Bruxelles la linea del patto di bilancio europeo, aveva accettato il percorso di risanamento e riforma prima ancora della famosa lettera di Francoforte. Dunque nessun complotto. Insomma, Frattini dice ha ragione, però Ren sbaglia i tempi. E dall'altra parte che succede? Non vedremo il confronto in TV a 6 perché Berlusconi ha deciso di no. C'è la Boccassini che attacca fortemente Ingroia, si vergogni a paragonarsi a Falcone. C'è la Finocchiaro che deve avere a che fare ancora con le gaffe sulle bidelle. Ecco, questa è la campagna elettorale, tra poco. Allora, Anna Finocchiaro ha a che fare con la polemica sulle bidelle. Finocchiaro e la gaffe sulle bidelle, mi scuso ma è un caso orchestrato. Così sul Corriere della Sera intervistata da Angela Frenda, non si capisce orchestrato da chi, da che cosa. Parlava porta a porta, ricordate, e dicendo, ha detto quella frase infelice, stiamo parlando di parlamentari della Repubblica Italiana, mica di bidelle, con tutto il rispetto per le bidelle. Però ormai la gaffe era fatta, no? Questa frase un po' classista, una frase che, ecco, da parlamentare, sì, effettivamente parlava di promozione delle donne nella vita politica del paese, l'accesso alla sfera politica, e io ho fatto quell'esempio sbagliato, avessi detto spazzacamini non si sarebbe offeso nessuno, ne sono più che sicura. E trattandosi di un paragone svalutativo può essere risultato offensivo, lo capisco, ma ci tengo a dire che ho immediatamente chiesto scusa. Insomma, francamente mi pare che tutta questa questione che scoppia una settimana dopo ha un'orchestrazione strana, panna montata ad arte. Poi Anna Finocchiaro torna anche sulla vicenda, ricordate, fu quella che fu fotografata con la scorta all'IKEA. La scorta deve per forza entrare dentro l'IKEA, scorta che tra l'altro ho chiesto più volte che mi fosse tolta, ma se ce l'hai ti assume un impegno nei confronti del Ministero dell'Interno che te la dà. Se ti succede una cosa qualunque, che ne so, un pazzo scatenato prende un martello dal reparto attrezzi dell'IKEA e te lo tira in testa, i poliziotti rimasti fuori passano un bel guaio. Ecco, questa Anna Finocchiaro sul Corriere della Sera, avete sentito? L'IKEA, deve entrare nell'IKEA la scorta. Beh, metti che uno, un pazzo, mi riconosce, mi dà una martellata e quelli stanno fuori, passano un bel guaio questi poliziotti che non hanno fatto il loro dovere. Ecco perché si deve essere rispettosi del protocollo. E qui la frase finale da parte di Anna Finocchiaro, cioè vivere con la scorta una vita infernale, inutile dirlo. Non ci sarà il confronto a 6 perché Berlusconi dice si deve fare solo con i capi di coalizione, non con i candidati premier, quindi no del Cavaliere al formato, salta il confronto TV in Rai, non vedremo il confronto a 6, mentre invece Ilda Boccassini, una che non parla mai in maniera pubblica, non fa mai dichiarazioni, ieri ha affidato, per la verità, peraltro per iscritto, una nota su Ingroia, una nota molto dura, perché Ingroia nei giorni scorsi aveva detto io ho subito degli attacchi come all'epoca subì Giovanni Falcone. Apriti cielo anche per Ilda Boccassini, vergogna, non sei come Falcone. Come ha potuto Antonio Ingroia paragonare la sua piccola figura di magistrato a quella di Giovanni Falcone? Tra loro esiste una distanza misurabile in milioni di anni luce. Si vergogni. Questa è la nota molto dura, molto secca di Ilda Boccassini, alla quale Ingroia ha risposto ieri in serata dicendo lei non sa di cosa parla, io quando sono entrato in politica ho percepito una stizzita reazione e questo ne è la riprova, lo stesso era accaduto a Falcone quando era andato al ministero. Prima di sparare a zero bisogna informarsi, non mi sono certo paragonato a Falcone. In ogni caso c'è anche un'intervista a Maria Falcone su Repubblica, la sorella di Giovanni Falcone, che rincara la dose nei confronti di Ingroia, dice usa Giovanni per i voti, non lo permetto. Questa l'intervista che trovate su Repubblica. Vabbè, c'è Dell'Utri che è indagato per la vicenda della biblioteca dei Girolamini, cioè di tanti libri che sono spariti da questa biblioteca che contiene dei libri rarissimi a Napoli. E tra l'altro racconta Fulvio Buffi sul Corriere della Sera che c'è anche una copia rarissima di inestimabile valore, l'Utopia di Thomas More, che sarebbe sparita e sarebbe proprio nella personale dotazione di Marcello Dell'Utri, che vuol dire, cioè, ce l'ha a casa. Questa è l'accusa almeno della procura che indaga su questa scomparsa. Vabbè, allora, voi siete di quelli che pensate che l'acquisto di Mario Balotelli da parte del Milan possa spostare dei voti elettorali, perché non è più un acquisto che rientra nei canoni degli acquisti sportivi, ma diventa una questione politica. Guardate, il Fatto Quotidiano fa una pagina con Andrea Scanzi: Balotelli, la cafonata elettorale di Berlusconi. Al Milan, quello che tre settimane fa era una mela marcia, una variante del meno tasse per tutti per sognare il 20%. Oppure guardate l'Unità: si vota, la mela non è più marcia. E c'è la foto di Mario Balotelli. Libero la vede dall'altra parte. C'è un Super Mario in campo, ma per Silvio vale a dire Mario Balotelli. Il Manifesto invece mette un paragone che sinceramente mi sfugge. Un calcio alla miseria, il solito, se mi si permette, un po' di qualunquismo quando si parla di stipendi dello sport. Gioca l'asso Berlusconi, compra per 20 milioni Balotelli, mentre lo Stato taglia del 75% le politiche sociali. Il paragone sembra un po' azzardato. Insomma, comunque, la Gazzetta dello Sport mette Balo is back, il titolo della Gazzetta. Ovviamente a tutta pagina c'è Balotelli, e chiude anche con Filippo Facci il suo appunto su Libero, a dire: il Milan ha comprato Balotelli, allora io voterò Berlusconi, urg. Ecco, diciamo che un tizio del genere, uno che ragiona così, io vorrei proprio conoscerlo. Lo scrivo perché diamo tutti ormai per scontato che il cavaliere sappa sedurre categorie che noi alfabetizzati non possiamo raggiungere né comprendere. E qui segue in genere la citazione di un vecchio detto berlusconiano secondo il quale la media degli italiani è un ragazzo di seconda media che nemmeno siede al primo banco. Insomma, Filippo Facci scrive: io è davvero così? Non ci credo, non ci credo che un tizio voterà PDL perché il Milan ha comprato Balotelli. E se mi sbaglio, io questo tizio voglio conoscerlo. Sarà così? Chi lo sa? Intanto, Giornale Radio.